si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buon sabato, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Staremo insieme fino alle 10, un'occhiata tra poco alle prime pagine dei giornali, i nostri approfondimenti, le buone notizie, i nostri contatti. Se volete interagire da subito con noi in tempo reale, ci trovate su Facebook, la pagina del programma è Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Ieri il governo ha dato via libera a un disegno di legge sull'inasprimento delle pene per i reati di corruzione, l'allungamento della prescrizione per evitare la tagliola dei tempi sui processi di corruzione, i giudizi diciamo contrapposti o comunque i pareri anche critici su questo provvedimento, ma per lo più favorevoli, li leggeremo tra poco sui giornali. Noi ci occuperemo più avanti anche di questo, parleremo con Pino Maniaci, il direttore di Teleiato in Sicilia, Partinico, una TV antimafia. Chiederemo a lui se questa inchiesta di mafia capitale, di vera mafia si tratta, o come ha detto qualcuno, come ha ventilato lo stesso Presidente del Consiglio, se si tratta di una cricca di affari romani ma lontana dalla mafia. In settimana il procuratore capo di Roma Pignatone ha detto non c'è una vera mafia, un'unica mafia che controlli la capitale. Ne parleremo con Pino Maniaci, che ha subito anche settimana scorsa delle intimidazioni a suo carico, storicamente, insomma, da tempo impegnato contro la mafia. Poi vedremo una ricetta che arriva da Torino, dal Consiglio Comunale, dove si è deciso di fare gli incarichi dirigenziali a rotazione, dureranno non più di 3 anni, per evitare di mettere i dirigenti degli uffici chiave, insomma, sotto pressione di possibili ricatti e di possibili forme di corruzione, una strada che ha deciso di intraprendere a quanto pare anche la capitale, lo ha annunciato 2 giorni fa il sindaco di Roma Ignazio Marino. Insomma, di tutto questo parleremo più avanti. Adesso però iniziamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Bene, andiamo a iniziare. Allora, titoli, come detto, anche sullo sciopero naturalmente generale di ieri, e poi c'è un'intervista per esempio al ministro dell'economia Padoan su, mi pare, sulla Stampa. Il sindacato non ci fa paura, dice, leggeremo più avanti. Poi anche il fatto che da oggi entrano in vigore nuove etichette alimentari, questa è una cosa di cui avevamo parlato anche noi, alcuni giornali se ne occupano, vedremo quali sono le novità. Cominciamo però con il Corriere. Stretta del governo sulla corruzione, pena più alta e si allungano i termini per la prescrizione, ma non passano gli sconti per chi collabora. Andiamo a vedere all'interno qualche dettaglio. Il compromesso, scrive il Corriere, che lascia fuori gli sconti per chi collabora. Questo è l'aspetto su cui si sofferma Giovanni Bianconi, che dice: il codice penale non è un gioco di società, né è fatto per essere modificato in fretta e furia al fine di mettere in pratica una battuta. Parificare la pena minima della corruzione a quella della concussione, per esempio, e dunque mettere sullo stesso piano l'accordo illecito tra privati cittadini e invece la costrizione da parte di un pubblico ufficiale, non pare una buona idea. Questo, diciamo, per quanto riguarda avere toccato solo il reato di corruzione e non anche altri aspetti della vicenda, il reato di concussione, e poi si stigmatizza il fatto di non avere di aver lasciato fuori gli sconti invece per chi collabora. L'altro commento è quello di Michele Ainis, costituzionalista, che dice: la fretta e i dubbi, che se la prende un po' con la reazione della politica ai fatti di cronaca, e quindi queste ondate emergenziali sull'onda delle quali poi si agisce non sempre in maniera corretta, coerente. Scrive Ainis: troppi detenuti nelle carceri, liberi, allora depenalizziamo. Troppi corrotti nella municipalità capitolina, allora penalizziamo. Sicché in Italia siamo giustizialisti o garantisti a giorni alterni. Anche se insomma, sarebbe da dire che sicuramente le carceri sono piene di gente che fuma di spinelli o che spaccia piccoli quantitativi di droghe e poco piene di gente accusata di reati gravi come la corruzione. Questo lo dicono gli esperti, lo dice il senso comune, lo dicono i numeri, l'ha detto anche Renzi qualche giorno fa. Quindi in questo caso c'è coerenza da parte dell'azione di governo. Ma al di là di questo è un mio commento diciamo personale, ma proseguiamo con Ainis in prima pagina del Corriere, che dice: il Consiglio dei Ministri ha appena licenziato un testo urgente, benché non tanto urgente da confezionarlo in un decreto. Quel testo stabilisce la confisca dei beni del corrotto, meglio tardi che mai, innalza i termini di prescrizione che altre leggi avevano abbassato e per l'appunto aggrava la pena detentiva di 2 anni. Succede sempre quando c'è un allarme sociale da placare, già successo con le norme approvate dopo l'ultimo caso di pedofilia quasi 2 anni fa, o dopo il penultimo disastro ambientale a febbraio di quest'anno. Funzionerà, e questo è poi il punto centrale del commento, come dice il poeta, un dubbio il cor m'assale, perché chi ruba e chi intrallazza non pensa al codice penale, pensa di farla franca, e se ci pensa non saranno 10 anni di galera anziché 8 ad arrestare i suoi progetti. Questo è il punto di vista un po' critico di Ainis. E va bene, altri commenti invece vanno in direzione diversa. Adesso però occupiamoci per esempio dello sciopero, perché l'altro commento sempre del Corriere è: le tante piazze del sindacato, i pochi distinguo degli antagonisti. Dario Di Vico che se la prende col fatto che i sindacalisti dalle piazze dove hanno parlato non hanno preso le distanze con gli scontri avvenuti a Torino, a Milano e a Roma, dove secondo Di Vico ormai agiscono veri e propri professionisti del disordine, travisati e armati di corpi contundenti ed oggetti di ogni tipo. Il commento invece del Manifesto, tanto per andare su un giornale che ha un punto di vista sicuramente diverso su questa questione, è totalmente diverso, opposto. Il titolo è: un bel lavoro, 1,5 milioni di persone riempie le piazze, basta dilettanti allo sbaraglio, il Premier ci convochi, senza risposte ci saranno nuove forme di lotta, dice Susanna Camusso, poi anche Barbagallo e Landini, forti di uno sciopero con adesioni di oltre il 60%, chiedono al governo di cancellare il Jobs Act. Poi ci sono le cronache sugli scontri in diverse città e anche le contestazioni a Massimo D'Alema a Bari. Alla sinistra non va più bene nemmeno Massimo D'Alema, che invece su questa cosa delle riforme del lavoro e anche nell'opposizione a Renzi ha un po' segnato gli ultimi mesi della sua attività politica, di quel che resta almeno. Sempre su questo argomento saltiamo su un altro giornale, il Fatto Quotidiano, l'intervista a Maurizio Landini, segretario della FIOM, che se la prende col fatto che la politica ha smesso di rappresentare i lavoratori più deboli. Com'è stato questo sciopero? Domanda. Risposta: un successo straordinario, dice Landini, perché non solo si sono riempite tante piazze, ma c'è stata una adesione alle iniziative, allo sciopero, che ha riguardato non solo gli iscritti alla CGIL e alla UIL. Secondo lui c'è stata un'adesione che va al di là degli iscritti ai due sindacati che hanno proclamato lo sciopero. Le piazze hanno confermato che la maggioranza di chi lavora, dei precari e anche degli studenti, non condivide le scelte del governo, quello che qualche tempo fa aveva definito gli onesti che non stanno col governo, poi ritrattando in parte questa formulazione, ma da un'altra parte invece confermando il fatto insomma che l'Italia degli onesti, quelli che pagano le tasse, che lavorano, che non sono i corrotti per esempio, non stanno dalla parte del governo. Ancora, a proposito insomma delle riforme in atto e del Jobs Act, che è la pietra delle divisioni nel mondo del lavoro, Poletti dice di voler dialogare sui decreti attuativi del Jobs Act, che ripetiamo è una delega del governo ad emanare delle norme precise, dei decreti attuativi, quindi è tutto ancora nei contenuti sostanzialmente da scrivere. Questa apertura di Poletti è sufficiente, risponde Landini. No, non è sufficiente. Discutere i decreti è utile, ma bisogna cambiare le decisioni che sono state prese. E poi le contestazioni a Massimo D'Alema. Come le giudica? Il problema, dice Landini, è che la gente non si sente rappresentata. Ci sono situazioni drammatiche, ci sono disoccupazioni infinite, casse, integrazioni senza un euro, figli che non trovano lavoro o sono precari a vita. Che nei confronti della politica ci siano una sfiducia e una lontananza è il problema di questo momento, il problema quindi principale, secondo Landini. Commento opposto è quello sulla stampa del ministro dell'economia Padoan, che dice: il sindacato non ci fa paura, sulle riforme andremo avanti. Leggiamo anche qua l'intervista che parte alla larga. Alexis Tsipras, probabile vincitore delle elezioni in Grecia, chiede una ristrutturazione del debito. Che cosa ne pensa? Risponde Padoan: non intervengo nelle valutazioni di altri governi, ma l'esperienza mi dice che una ristrutturazione ordinata del debito, come chiede per esempio anche il Movimento 5 Stelle, aggiungo io, sia molto difficile da fare e dunque che sia un grosso errore ipotizzarla. E va bene, accantoniamo quindi la ristrutturazione del debito secondo Padoan. Poi, che bilancio fa del semestre italiano a guida, cioè del semestre in cui l'Italia ha guidato l'Unione Europea? Il vostro slogan era cambiare verso anche all'Europa. Come è andata a finire, visto che il semestre sta per finire? Giusto, tra l'altro, ricordarselo adesso, fa bene la stampa a fare questa intervista. Padoan risponde al ministro dell'economia: dopo la presentazione del piano Juncker occorre una spinta da parte dei governi, la presidenza italiana è iniziata da qui e noto con soddisfazione che i temi della crescita sono più centrali di quanto non lo fossero sei mesi fa. Può darsi, sarà, diciamo, si tratta a questo punto, anche per ammissione dello stesso ministro, di una discussione che si è aperta, non tanto di risultati concreti che possono essere stati portati a compimento, punti messi in cascina. Questo no, neanche per ammissione dello stesso ministro italiano. Finiamo tra poco di leggere l'intervista di Padoan sulla stampa, poi anche le altre notizie sui giornali di oggi. Dopo però il traffico, tra un attimo. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. Riprendiamo con la lettura dei giornali. Stavamo dando un'occhiata all'intervista al ministro dell'economia Padoan sulla stampa, a proposito del semestre italiano di guida dell'Unione Europea. Abbiamo aperto, dice in sostanza al ministro, la discussione sulla crescita in Europa, e poi veniamo appunto ai temi italiani. In Italia c'è appena stato uno sciopero generale, quindi questa discussione, diciamo, sulla crescita non ha portato grossi risultati, almeno sul piano interno, perché c'è tutto il mondo del lavoro, il sindacato, almeno una parte preponderante di esso, sul piede di guerra. Risponde Padoan: le resistenze non ci sorprendono, a mio avviso una parte del sindacato percepisce che questa volta le riforme cambieranno veramente il mercato del lavoro. Accanto alla reazione di chi ha privilegi c'è poi quella legata ad una dimensione simbolica. L'articolo 18 è associato a un malinteso senso di protezione, e questo insomma è il vecchio refrain del governo su questo argomento. Andiamo per esempio sempre la stampa, che fa un approfondimento sulla notizia, dicevamo prima, cioè le nuove etichette a livello europeo sui prodotti alimentari. Ecco che cosa cambia sul tuo scaffale, ma anche che cosa cambia per esempio nei ristoranti dove e nelle mense, dove dovrà essere possibile essere a conoscenza di tutti gli ingredienti contenuti negli alimenti, soprattutto delle componenti allergeniche. Ne avevamo parlato anche noi a Si può fare. Alcuni ristoratori si dicevano preoccupati per l'aggravio, diciamo, no, di norme da questo punto di vista, di cose a cui dover rispondere dal punto di vista della responsabilità e anche dal punto di vista burocratico, il fatto di dover cambiare continuamente i menu e allungarli a dismisura. Tant'è, queste sono le previsioni europee. Vediamo di che si tratta. Le scritte intanto dovranno essere più grandi nelle etichette, con caratteri non inferiori a 1,2 mm, anziché le misure a volte veramente microscopiche che ci sono adesso sulle etichette, non ci si legge un tubo. Il metodo di lavorazione sarà obbligatorio indicarlo per alcuni prodotti, tipo gli scongelati, oppure oli e grassi vegetali. Non si potrà più scrivere genericamente olio vegetale o grasso vegetale, ma si dovrà precisare di quale olio vegetale si tratta, olio di vinaccioli o vinaccioli, non so come si pronuncia, di mais o grasso vegetale, per esempio prodotto dal cocco. Non so se si tratti del famoso olio di palma, che anche questo, diciamo, è nel mirino, no? Di alcune associazioni di consumatori e degli esperti di alimentazioni. E poi il tema delle allergie: ci sarà l'obbligo di indicare sull'etichetta eventuali ingredienti che potrebbero comportare un rischio allergenico con caratteri in grassetto. Poi il tema dei valori nutrizionali sarà facoltativo fino al 13 dicembre del 2016, cioè ancora per 2 anni. Poi diventerà obbligatorio dare informazioni sul contenuto energetico e le percentuali di grassi, ma questo tra 2 anni. Invece da aprile 2015, cioè qualche mese, per il pesce dovranno essere indicate le tecniche di cattura, e per tutte le carni, non più solo quelle bovine, dovranno essere indicate il luogo di allevamento e macellazioni, quindi anche per carni suine, caprine, per il pollame, insomma per tutte le carni, anche quelle ovine, dovrà essere indicato il luogo dove è stato allevato e macellato l'animale. Insomma, un po' più di elementi, di informazione, di chiarezza e forse anche di trasparenza a tutto vantaggio dei consumatori. Di questo si occupa anche il Giorno, il quotidiano nazionale Il Giorno, che in prima pagina scrive: allarme cibo spazzatura, ormoni antibiotici e OGM, il libero scambio con gli Stati Uniti minaccia le nostre tavole, e intanto sulle allergie arrivano le nuove regole europee. Leggiamo anche qui di che si tratta. 1 milione di firme contro il trattato di libero scambio tra Europa, Stati Uniti e Canada, il Transatlantic Trade and Investment Partnership. Sono state raccolte in 2 mesi, 1 milione di firme raccolte in 2 mesi. Di che cosa hanno paura i firmatari, tanto da presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea? Le accuse al trattato spaziano dai timori che il mercato europeo venga invaso da carni trattate con ormoni antibiotici, polli sterilizzati con la varicchina, latte arricchito e produzioni con organismi geneticamente modificati, fino alla preoccupazione sui livelli di sicurezza dei farmaci. Sindacati, alimentaristi e associazioni di categoria sono in allarme. A questo si affianca il tema invece europeo di una stretta, come dicevamo prima, positiva per i consumatori, ristoranti, mense a prova di allergie. Da oggi il menù segnala i pericoli. Quali sono i pericoli secondo il Giorno? Legati al glutine, legati ai crostacei per esempio, ai molluschi, latte uova di pesce, frutta a guscio come noci, nocciole, noccioline, arachidi, che anche queste sono altamente allergizzanti. Sono alcuni degli esempi che si fanno per quanto riguarda il rischio, insomma, di allergie legate all'alimentazione. Il Sole 24 Ore con il titolo economico: il petrolio crolla e affonda le borse. Il barile cade sotto $50, il minimo dal 2009. Piazza Affari cede il 3,1%. Sono contenti gli automobilisti, che hanno visto scendere il prezzo della benzina in questo periodo. Il prezzo medio, anche se in alcuni casi non si nota neanche, però così è. Il Sole 24 Ore invece evidenzia il calo della domanda di greggio che spaventa i mercati, perché insomma è un sinonimo di crisi. Se non c'è richiesta di petrolio, vuol dire che l'economia non riparte. Nuovo balzo dei tassi greci, spread BTP Bund sopra quota 140. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Adesso, tra le pieghe dei giornali non di oggi, vi vogliamo dare però anche una buona notizia. Vai! Come un semplice bollino blu potrebbe eliminare la corruzione negli appalti pubblici? C'è finalmente un accordo tra il presidente dell'anticorruzione Cantone, il presidente dell'antitrust Pitruzzella e Antonello Montante di Confindustria è stato firmato un protocollo che prevede di applicare ancora di più il rating di legalità delle imprese, un bollino blu di riconoscimento per gli imprenditori virtuosi sul piano economico, ma anche sul piano della legalità, cioè se vengono rispettate, se non ci sono fedine penali sporche, se non ci sono precedenti condanne, se c'è tutto in ordine dal punto di vista della legalità. Queste aziende potrebbero essere, questo è il punto fondamentale, privilegiate, avere dei punti in più quando si fanno gli appalti dei lavori pubblici. Allora molte delle aziende che ci sono per esempio coinvolte anche nei recenti scandali di corruzione probabilmente non lavorerebbero più per la pubblica amministrazione dopo aver avuto condanne o insomma inquinamenti dal punto di vista della corruzione. Il rating di legalità, il bollino blu, un'iniziativa tra l'altro partita proprio da Confindustria che adesso potrebbe decollare. Speriamo che sia così. Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, torniamo subito dopo anche con il numero verde 800 24 00 24. Si può fare cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ciao carissimi ascoltatori, 800 24 00 24 il numero verde, cominciate a prenotare il vostro intervento per commentare tutto quello che sentirete, i fatti, la rassegna stampa, poi le nostre buone notizie, il gioco. Sì signori. E chi più ne ha più ne aggiunga. Fai queste pause che mi agitano sempre, non so se devo infilarmi, devo dire delle cose sapide e intelligenti. Sono sveglio da poco, oddio da poco, ormai neanche da pochissimo diciamo. Da pochissimi secondi diciamo. No, sì esatto, perché vengo dormendo in motorino. I minuti si conterebbero sulle dita di una mano. Allora, beh, tra poco parleremo con il mitico Pino Maniaci di Teleiato, il direttore di Teleiato, minacciato dalla mafia ancora una volta. E vogliamo parlare un po' con lui anche di questa mafia capitale, per capire se è davvero mafia o come dice qualcuno è una cricchetta. È capitale. È solo capitale. Esatto. Ma insomma, la cricchetta mi sembra una lettura un po' a ribasso, direi, minimalista, direi un po' minimalista. Sì. L'ha detto Giuliano Ferrara, anche Renzi ha detto all'indomani proprio della prima inchiesta, dobbiamo capire se si tratta di vera e propria mafia o di appunto poco più di una cricca. Ieri però hanno varato questi nuovi inasprimenti di pene il governo, insomma, buona notizia perché ci vuole, credo, no? Che poi bisogna combinarle le pene, nel senso tu puoi anche decidere che se uno è giudicato colpevole si fa 150 anni di galera, ma se però poi non lo giudichi colpevole non serve a niente, insomma, in quel senso. Ieri mi è piaciuto un tweet di Giancarlo Loquenzi, che su Radio 1 fa un programma 18:15 bianco e nero, che dice a proposito di Fragola, il vincitore di X Factor, ma diceva non vi sembra che assomiglia a Matteo Renzi da giovane? Io ho risposto no, perché dobbiamo infilare Renzi a tutte le parti? Proprio anche ovunque. Ovunque. Ma quindi che in realtà è stato pilotato dal Presidente del Consiglio? Cioè, forse sotto sotto era quella la cosa, non lo so. Beh, comunque ha un nome bellissimo per un Presidente del Consiglio, Fragola mi sembra straordinario. Invece a me mi ha incuriosito molto la notizia, visto che si sbaglia sempre, diciamo la mia solita quota fucsia, visto che si sbaglia sempre fra coming out e outing, abbiamo un esempio di outing, così chiariamo precisamente, che coming out è quando uno dice io sono omosessuale, outing invece è la delazione, ovvero qualcun altro che addita qualcuno e dice lui è omosessuale. Quello che succede in Francia in questo momento, dove Closer, la rivista che è la stessa che parlò di Hollande, dell'amante, sputtanandolo, scusate, esatto, il francesismo, ma e fa un servizio diciamo scandalistico sul vicepresidente del Front National, partito di Marine Le Pen, esattamente, e quindi è il braccio destro di Le Pen, che è Florian Philippot, dicendo, diciamo, parlando della sua omosessualità. Io vorrei dire molto precisamente che io sono personalmente contrario all'outing, cioè alla delazione, a dire di qualcun altro che è omosessuale. Ovvio che fosse l'unico caso in cui è un movimento che è nato negli Stati Uniti, questo, che è nato esattamente per questo motivo, cioè nel momento che c'erano dei politici che festeggiavano con leggi in realtà omofobe, allora si è detti: senti, ma siccome noi sappiamo che alcuni di questi sono omosessuali, diciamolo. Ma il Front Nazionale tra questi è omofobo, oltre che il Front Nazionale un po'... ha detto, in realtà va detto a onor del vero che il vicepresidente non si è schierato contro i matrimoni e non è andato in piazza nelle manifestazioni, però il Front Nazionale sì, è pesantemente contro il matrimonio omosessuale, ha già detto che se andranno loro al potere quella legge la toglieranno, che è la legge che è appena stata varata, quindi si sono messi, però è vero che si sono messi in maniera più morbida di quello che ci si poteva aspettare. Ecco, vedi come tutto torna, perché l'alleata in Europa di Marine Le Pen, di cui tu stavi parlando, è Matteo Salvini della Lega, e noi partiamo per il gioco di oggi dalla presa di posizione di Salvini sul tema del presepe. Pensavo che avessi uno scoop di qualcuno all'interno della Lega. Scusami. Da questo punto di vista non ho notizie. Partiamo da questo, cioè Salvini che protesta contro l'eliminazione del presepe in alcune scuole italiane. A dire la verità, sono quasi la maggioranza, credo, le scuole dove non si fa normalmente il presepe, perché non è che in tutte le scuole si fa per forza il presepe. Però il tema l'abbiamo capito, è chiaro, no? Il tema secondo cui l'integrazione non si fa eliminando il presepe, ma si fa, non lo so, in qualche altro modo. Io penso che intanto su questi temi non si protesta, si parla semmai. Certo. Come non è piaciuta molto la protesta di Salvini, però forse nel merito non gli do tutti i torti. Insomma, adesso vogliamo giocare così, però. Va bene, aggiungiamo simboli delle proprie radici, della propria provenienza, della propria religione. Quindi non togliamo il presepe, ma aggiungiamo. Allora, siccome stanotte è stata Santa Lucia, in alcune città, per esempio nel nord, si festeggia addirittura più del Natale. Allora chiamateci, raccontateci come si festeggia Natale a casa vostra, nelle vostre città. Cioè aggiungendo un pezzo del presepe, diciamo. Aggiungiamo un pezzo di un grande presepe. Per esempio, nei paesi musulmani Natale si festeggia, lo sai, però senza Gesù bambino. Certo. Anche questa è una cosa curiosa. Chiamateci, amici musulmani italiani, e raccontateci questa cosa qua. Ma anche simboli della modernità, religiose, della sì. modernità, tipo sì. che la mirra bio potrebbe esserci, direi, nel presepe di oggi, giusto? Che cosa, scusa? Oro, incenso e mirra, la mirra sì. bio, visto che ormai è tutto bio, giustamente nel nostro nuovo presepe ci sarà la mirra bio. Pure l'Italia è piena di feste pagane, bellissime, tipo i Saturnali. Queste cose qua che festeggiavano gli antichi romani, lo sai? Sì. Con feste e scambio di ruoli. È sabato, sono le 8:25. Pensavi di interrogarmi sui Saturnali? Perché io pensavo che tu lo sapessi, se lo sanno tutti. Ma certo, ho dato Saturnali 1 e 2 all'università di teologia dal quale sono laureato. 800 24 00 24, cari amici ascoltatori, chiamateci, aggiungete le vostre tradizioni di Natale, tutte, anche quelle dove Natale non si festeggia. E il racconto più bello, come sempre, anche oggi vince i biglietti per la mostra di Chagall, nonché il prestigioso catalogo. Adesso possiamo andare a iniziare. Sì, signori. Pino Maniaci, vai. Fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con anime, sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso oltre ogni limite. Eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra. Napoli e Palermo, succursali dell'inferno, divorate dall'interno. In eterno, da tessuto tumorale di natura criminale. Mentre il mondo sta a guardare, muto senza intervenire, basta. Alla guerra fra famiglie, fomentata dalle voglie di una moglie con le doglie, che oggi dà la vita ai figli e domani gliela toglieranno, spogli dalle foglie che le taglia come paglia e nessuno se la piglia. È la vigilia d'una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale, distruttiva, oggi uniti più di prima alle cosche, bosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta in quest'Italia così laida. You gotta fight the fighter. Siamo andati a saccheggiare Frank High Energy con questo brano negli anni 90. Basta una busta nella tasca giusta, direi che è il claim di questo Natale. È purtroppo abbastanza attuale. Per introdurre Pino Maniaci, buongiorno. Buongiorno a voi, Pino Maniaci. Buongiorno. È una questione di accento. Maniaci, giusto, scusa. Ben ritrovato, ci siamo già sentiti, insomma, anche in passato. Pino Maniaci, direttore di Teleiato, la storica TV di Partinico, che lui ha rilevato, credo, nel 1999. Sì. così, esatto. Per le sue inchieste, per il suo impegno contro la mafia, ha subito diverse intimidazioni, l'ultima grave qualche giorno fa, adesso ce ne parlerà. Vogliamo chiederti prima di tutto un giudizio, così anche un po' da intenditore, che non suoni come una battuta, però, su l'inchiesta Mafia Capitale, perché insomma è un po' in dubbio, qualcuno lo ha detto, se di vera mafia si tratti oppure se di cricca, degli appalti, poco più che una banda di amici che tra di loro si divideva qualche lavoretto. Che ne pensi? Intanto un saluto a voi e ai vostri ascoltatori, e mettiamolo così, noi la vediamo sia da cittadini che da giornalista come mafia, quando c'è collusione, perché la criminalità organizzata si differisce proprio tra la commissione, che poi ci sono con un pezzo della politica e pezzi dello Stato. Infatti io continuo a ripetere che fin quando non si taglierà proprio questo cordone ombelicale che lega strettamente la mafia con la politica, noi siamo ancora in alto mare. Quindi inchiesta di Mafia Capitale, tra le altre cose ci fa capire che ovviamente la questione mafie ormai è una questione su tutto il territorio nazionale, e ovviamente non solo siciliana o non solo del Meridione, perché possiamo parlare di Expo a Milano come possiamo parlare anche di Mose a Venezia. Ecco, questa poi è la differenza tra la criminalità e la mafia. Ecco, insomma, la mafia storicamente parte però dalla Sicilia, e non è che sia solo partita, c'è ancora, perché tu stesso hai subito diverse intimidazioni, l'ultima qualche tempo fa. Ci vuoi raccontare che cosa è successo? Ma vedi, hanno alzato un po' il tiro, noi ci occupiamo di tante inchieste sul territorio, ovviamente abbiamo parlato di boss che tornano dopo aver scontato le pene a calpestare ovviamente questi luoghi, a riorganizzarsi, perché il problema della mafia è proprio questo, cercare di rialzare la testa dopo aver subito colpi da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Abbiamo parlato di traffico di cocaina, la cocaina sta diventando ovviamente un problema per i nostri ragazzi, che ne fanno uso e abuso come l'alcol, quindi una società in disfacimento. Abbiamo parlato anche di inchieste molto delicate che stiamo portando avanti sui beni sequestrati. Abbiamo detto chiaramente che questa legge non funziona, che ci sono l'arricchimento di pochi amministratori giudiziari, coadiuvatori, periti che hanno risorse milionarie dai beni sequestrati, tanto che abbiamo lanciato proprio una petizione per essere ascoltati dalla Commissione Nazionale Antimafia, che si sta occupando in questo momento di Targas, di tante altre cose appunto sui beni sequestrati, perché non è possibile che vengano tolti ai mafiosi o presunti tali, visto che parliamo ancora di sequestro, e poi vengono consegnati alla collettività falliti. Il 90% delle aziende sottoposte a sequestro vanno in fallimento, e quindi abbiamo toccato dei nervi molto delicati, molto scoperti, per cui abbiamo subito alcune pressioni che ovviamente noi ci confondiamo da che parte possono provenire. Questa ci sono delle inchieste, credo, aperte su quello che è accaduto, certo, i due cani, certo. Non so se magari non ne vuoi parlare, i due cani che ti hanno ucciso. Diciamo, mi tocchi nei sentimenti, perché vedi, mi hanno prima ucciso e poi impiccato due cani che erano parte integrante di questa redazione, nel senso che chi ha dei cani può capire, erano guarda, mi pare pure brutto chiamarmi animali, perché sono più animali coloro che hanno fatto questo, che sicuramente dimostravano, certo, il loro amore, il loro affetto nei miei riguardi, nei riguardi di tutta la relazione di teatro, dei giovani che vengono qui a trovarci, e me ne hanno fatto trovare proprio impiccati insieme. È stata un'immagine terribile che sarà difficile cancellare, e ovviamente ci sono indagini da parte delle forze di polizia che stanno lavorando per cercare di capire. Ma tu hai paura dopo quello che è successo? Oppure diciamo, ti senti... Nel corso di questi 15 anni ne abbiamo subito un po' di tutti i colori, dalle macchine bruciate, vetri tagliati, lettere intimidatorie, aggressioni fisiche, e fin quando si tratta, credimi, di beni materiali, noi abbiamo anche coniato dei detti della serie, voi a bruciarle e noi a ricomprarle, vediamo chi si stanca prima. Ma quando poi ti colpiscono in qualcosa che hai di caro, diciamo che... c'è quello scoramento. Noi non abbiamo mai in questi anni indietreggiato di un passo e continueremo ad andare avanti la lotta alla mafia senza se e senza ma, anche perché vedi, loro si sentono uomini d'onore, per noi disonorarli è una questione d'onore. Albanese aggiungerebbe anche qualche parolaccia. Ma può aggiungerla, può aggiungerla, anche lei può aggiungerla. Mettiamola così, loro si sentono uomini d'onore, per noi disonorarli è una questione d'onore, cazzo cazzo io, va bene, facciamo così. Perché colpirli nei loro patrimoni, ecco, questo è l'arricchimento illecito da parte dei mafiosi, togliergli i beni, infilargli le mani in tasca, perché... vedi, se a un mafioso gli togli un figlio, loro ti dicono che hanno tutta l'attrezzatura per poterlo rifare, ma se gli togli il potere che gli viene dal denaro, allora lì diventa veramente tragico. A proposito, a proposito di queste, diciamo, misure che occorrono, no? Una proprio sui beni confiscati ai mafiosi, ai corrotti, ieri il governo ha inasprito un po' le pene, qualcuno dice troppo poco, si poteva fare di più, c'è chi invoca una legge contro i conflitti di interesse che sarebbero alla base poi della corruzione, per esempio il Movimento 5 Stelle. A caldo, come giudichi la manovra annunciata ieri dal governo di questo inasprimento di pene contro i reati di corruzione? Ti sembra soddisfacente? Diciamo che potrebbe essere un primo passo, ma si deve proprio ad andare ad agire su tutto quello che è il sistema proprio della gestione. Poi tanto che Palermo gestisce qualcosa come dai 50 ai 60 miliardi di euro di beni sequestrati, un paio di manovre del governo Renzi, no? Un po' il bilancio, pensa che nel fondo FUG, Fondo Unico per la Giustizia, sì, ci sono 3 miliardi e mezzo di euro. Si riuscisse a sfruttare bene questi fondi, dici tu, altro che finanziare, certo. Cioè si potrebbe far quasi ripartire l'economia sfruttando queste risorse. In questo momento è in mano alla magistratura che può decidere se un'azienda fallire o no. Parliamo di Palermo gestisce quasi il 60% dei beni sequestrati in tutta Italia, quindi ti lascio immaginare un patrimonio immenso di imprese, aziende, appartamenti, terreni, quindi è in mano alla magistratura. E questa forse è davvero la vera sfida, insomma, che attende il governo, forse, ma anche la giustizia, cioè far ripartire i beni confiscati alle mafie, perché fino al sequestro ci arriviamo, poi però spesso non si riesce a metterli a disposizione di chi potrebbe utilizzarli per far ripartire le vere attività economiche, senza contare che spesso si perdono anche quei posti di lavoro, tanto da far dire poi alla gente ma allora era meglio la gestione che c'era prima. Una conclusione, diciamo, sconcertante, ma tra le cose possibili, credo. Staremo a vedere. Intanto grazie a Pino Maniacci per essere stato con noi, buon sabato, in bocca al lupo per tutto quello che fate. Grazie a voi, un saluto. Grazie, arrivederci. A presto. Insomma, è una storia pesante questa qua, eh? Molto. Tanto per dire, però lui che sta in prima fila, in primo piano, in Sicilia, nella lotta alla mafia, ti dice che sì, quella di Roma è mafia. Quindi non c'è da scherzare o da minimizzare come qualcuno ha fatto dicendo Cricchetta, amici che si dividevano gli appalti. Onestamente, con quello che sta venendo fuori, dire Cricchetta e amici mi sembra molto difficile. Poi insomma c'è stato qualcuno che l'ha detto. Sì, tra poco vedremo. Intanto ascoltatori 800 24 00 24, chiamateci per commentare anche la storia che avete sentito di Pino Maniacci. Tra poco andremo a Torino per una buona pratica nella lotta alla corruzione. Vediamo. Vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si viene, si va, comunque ballando, pensando una vita forse non basterà. Si viene, si va, allora tenendo la vita per la coda, nel caso che Dio non sia in sede. Si viene, si va, tenendoci stretti, tenendoci dritti, che così si fa. Si viene, si va, per sempre fra gusto e dolore, più o meno, venendo nel mondo, più o meno. Vai, vieni e vai, come puoi, nasci solo e solo andrai, e in mezzo che hai, quel gran bel traffico, il traffico che vuoi. Si mentre rinnoviamo l'invito agli ascoltatori all'800 24 0024 a chiamarci per raccontarci come festeggiate il Natale, le tradizioni delle vostre città, le tradizioni locali, o anche come siete a conoscenza venga fatto in altri paesi. Insomma, siamo partiti dalla notizia della protesta di Salvini contro il mancato presepe nelle scuole italiane. Allora noi diciamo, aggiungiamo tradizione a tradizione, raccontiamocele tutte, vai. La più bella, come sempre, la premiamo. Si viene, si va, è perfetta, di Ligabue, per parlare della notizia che abbiamo annunciato, che viene da Torino: dirigenti a rotazione, quelli con incarichi di responsabilità, per diminuire il rischio. Ecco. Perché appena tu chiedi la mazzetta, poi arriva la mazzetta, ma la ritira un altro. Cioè la chiede uno e la ritira un altro. Questo, esatto, sarebbe un bello smacco. Ne parliamo con il direttore, il direttore del personale, l'assessore al personale del Comune di Torino, Gian Guido Passoni. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Noi ci scherziamo, ma la cosa è seria naturalmente. Si tratta di una delibera che avete appena adottato per quanto riguarda il vostro comune a Torino. Ci spiega di che cosa si tratta? Sì, dunque, in estrema sintesi, diciamo che dentro due normative nazionali che esistono, che sono l'anticorruzione e la trasparenza, che sono anche due principi di buona amministrazione, abbiamo previsto che dopo un'analisi fatta da un comitato interno che ha scelto quali sono le aree tipicamente più a rischio rispetto alle attività potenzialmente oggetto di corruzione, si è previsto un piano di rotazione. Questo consente ovviamente di pianificare nel tempo quelle che sono le posizioni che nel dentro un triennio e poi nei trienni di incarico ovviamente dirigenziali, ma non soltanto, anche delle posizioni organizzative, delle posizioni di responsabilità funzionariali, quindi anche i livelli di quadro, non soltanto, come dire, i capi, ecco, per capirci, ruoteranno, e ruoteranno naturalmente dentro dei piani di rotazione che alterneranno le funzioni di responsabilità con altre, in modo da rendere ovviamente più complicato, più difficile, o meglio prevenire quelli che possono essere i fenomeni di come dire, presenze costanti in un settore che possono diventare un elemento anche di aumento della probabilità di possibilità di corruzione. Senta, ma se c'è però un funzionario integerrimo, bravissimo, in un incarico di grande responsabilità, delicato, mandate via anche quello però. Ma allora, quindi è un prezzo necessario? È una domanda che ci è stata effettivamente fatta anche internamente. In realtà il piano prevede le aree di rischio e prevede un piano di rotazioni. In realtà prevede anche la possibilità che non dentro quell'area non tutto il personale venga ruotato in relazione a dei parametri. Quindi diciamo che non è detto che si perda professionalità verso la rotazione, anzi il piano prevede proprio di valutare insieme sia il profilo di rotazione ma anche quella che è la formazione che le persone, naturalmente acquistando professionalità nel loro lavoro, non devono perdere. Non è che possiamo ovviamente rinnovare il profilo professionale delle persone ogni tre anni cambiandogli totalmente il lavoro. Quindi nel piano c'è una valutazione attenta con un comitato interno di quelle che sono le professionalità, anche per evitare che l'ente in realtà abbia poi alla fine anche un danno dalla rotazione, perché è un paradosso, ma potrebbe anche succedere in termini di efficienza. Anche perché ho letto, mi scusi, io sono lo stupido dei due, però ho letto anche che ci sarà un periodo di affiancamento che mi sembra il periodo più pericoloso, nel senso che se c'è uno che è un corrotto fa il periodo di affiancamento e durante quel periodo gli spiega come funzionano le cose. Diciamo che il percorso è pilotato da un comitato interno, che è il comitato che gestisce peraltro altro, il piano sulla trasparenza, il piano anticorruzione che vigila anche sul periodo di affiancamento. Ah, perfetto. Perché è chiaro che l'affiancamento è necessario, perché se parliamo di materie molto tecniche, perché il primo lavoro che il piano deve fare è di identificare quali sono le aree che possono essere maggiormente a rischio. Non è tutto l'ente, sono le aree tecniche, le aree dei contratti appalti, le aree del personale dei concorsi, tutte quelle aree che hanno profili ovviamente di rapporto più complicato con le norme, con i profili di rischio che ci sono, e evidentemente quel comitato ha una responsabilità enorme nel vigilare, ma anche nel controllare questi passaggi di consegna. Benissimo, assessore, resti con noi, facciamo una breve pausa per il traffico. Ascoltatori, 800 24 00 24, cosa ne pensate di questa soluzione? Può essere una soluzione intelligente contro la corruzione, incarichi dei dirigenti di responsabilità a rischio? All'assessore voglio invece chiedere se vi siete ispirati a qualche modello, qualche città, non so, europea, spesso noi ci guardiamo intorno per trovare queste buone soluzioni, oppure se c'è un farina nel vostro sacco. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Si può fare, e siamo in compagnia dell'assessore al personale del comune di Torino, e stiamo commentando con lui la notizia dirigenti a rotazione contro la corruzione. Io ricordo quando studiavamo a scuola l'amministrazione dell'antica Roma, la corruzione era un problema fortissimo anche ai tempi dell'antica Roma, e i consoli stavano in carica 2 anni, se non ricordo male, in una certa fase del periodo di Roma, proprio per evitare cose di corruzione. Quindi diciamo un modello antico quantomeno c'era. Venendo diciamo all'oggi, assessore, vi siete ispirati a qualche città? Oggi dire ci siamo ispirati a Roma diventa molto difficile, ma come si... Ecco, no, diciamo di no. In effetti vanno dette 2 cose. La prima è che in realtà i modelli esistono, e sono dei modelli che vengono in realtà dalle discipline della Unione Europea, nel senso che l'Unione Europea ha emanato delle linee guida che poi ha recepito lo Stato anche con una legge nel 2011, sostanzialmente la 190, che ha previsto delle linee guida a cui poi ispirarsi per applicare questi piani anticorruzione. In realtà i manuali, come giustamente diceva lei, dicono 2 cose. Una, la rotazione, non il mantenimento a vita degli incarichi, che è un principio sacrosanto. 2, anche l'equa retribuzione, cioè a fronte di una posizione di responsabilità, una retribuzione equa per quella responsabilità che ovviamente si ha, conforme a quello che effettivamente uno ricopre. Queste 2 condizioni sono effettivamente importanti e stanno un po' nel disposto di 2 normative, quella sulla trasparenza, dove si rende pubblico la mansione, le competenze, lo stipendio del funzionario, del dirigente, e l'altra sulla anticorruzione, che è proprio quella che prevede da una parte il monitoraggio delle attività, d'altra parte ovviamente quella che è la rotazione. Questa rotazione tra l'altro è triennale, nel senso che giustamente non può essere diventare una trottola o una lotteria l'attività del comune, ma soprattutto viene monitorata, cioè ogni gennaio di ogni anno si fa il piano e ogni dicembre di anno viene poi pubblicato e reso noto anche sull'attività interna, in modo che sia trasparente anche l'attività Bene. Sull'anticorruzione. Tra l'altro intanto lo ringraziamo l'assessore Passoni di Torino, grazie per essere stato con noi, buon sabato. Voi. Avete fatto subito scuola, perché anche, no, magari non copiando direttamente Torino, ma insomma anche il sindaco di Roma, Marino, ha detto che vuole andare in questa direzione, quindi con l'incarica rotazione. 800 24 00 24, ascoltatori, cosa ne pensate di questa proposta, di questa soluzione che viene in questo caso da Torino? Sentiamo i vostri interventi, cominciamo con Angelo che chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiedo scusa per il rumore di sottofondo, ma sono in autostrada con la pioggia. Allora, intanto colgo l'occasione proprio da questo ultimo intervento dell'assessore di Torino, visto che mi occupo di anticorruzione con l'incarico di una società pubblica, che in realtà questa misura è stata prevista dal piano nazionale dell'ANAC, dell'autorità anticorruzione, quindi è previsto obbligatoriamente che ci sia nelle aree più a rischio la rotazione dei dirigenti e delle funzioni, e che è di derivazione tra l'altro statunitense, negli Stati Uniti si chiama mandatory vacation, proprio sostituzione per evitare che, consolidandosi la presenza in uno stesso incarico, si creino delle nicchie di potere che portino alla corruzione. Quindi non è una novità, ma è assolutamente una novità che, anche se viene annunciata come tale per finalità politiche, perché espressamente dal piano nazionale anticorruzione. Angelo, scusi, è una novità, ma non è un unicum, diciamo, piemontese? Assolutamente no. È Angelo, scusi, ma lei che lavoro fa? Lei ha detto che si occupa di anticorruzione. Sono colonnello dei carabinieri, adesso mi occupo di frodi interne alle aziende, di modelli organizzativi 231 e di piani triennali anticorruzione per le società. E come sta dal suo punto di vista la corruzione anche nelle aziende, visto che lei fa il consulente in questo senso? Ma guardi, le misure non sono soltanto queste, perché in realtà sistemi di controllo interno si basano su altri, anche su altri principi, quali per esempio la segregazione dei ruoli, cioè evitare sovrapposizioni per esempio tra controllato e controllore, evitare sovrapposizioni tra chi rappresenta un'esigenza di acquisto per esempio e chi individua un fornitore. Basterebbe mutuare, e ovviamente le aziende virtuose che applicano in maniera rigorosa questi banalissimi principi che determinano pesi e contrappesi, quindi un equilibrio per esempio tra le funzioni di controllo e le funzioni operative. Che ne pensa della proposta del rating, il bollino blu per le aziende, cioè il rating di legalità? Rating di legalità, penso che possa essere fallimentare, cioè non servire a niente, nessun stimolo se non viene agganciato ad un obbligo come inizialmente era stato previsto. Dare un merito creditizio concreto con sanzioni da parte della Banca d'Italia. Cioè, nel senso, insomma, va implementato, non va lasciato così, diciamo, al buon cuore. Poi, deve avere una finalità meritocratica. Va bene, grazie Angelo. Grazie. Vogliamo dare spazio in chiusura di questo blocco anche a Marisa, che chiama da Savona. Buongiorno Marisa. Buongiorno. Prego. Intanto oggi a Savona c'è la grande fiera di Santa Lucia, che era nata proprio inizialmente con le bancarelle dei pastori, delle case del presepe, eccetera, adesso è molto più allargata. Ma la tradizione del presepe a Savona è molto diffusa e c'è una grande partecipazione. Devo dire anche che il presidente della comunità islamica di Savona, il dottor Zargaro, è una persona molto sensibile, aperta. L'anno scorso in Duomo ha partecipato assieme al vescovo alla presentazione di un presepe fatto da tutti i bambini, e nelle scuole savonesi vengono chiamati a collaborare anche i bambini di religione islamica. Ricordo che Gesù per la religione islamica è un profeta, una persona, è una figura importante, così come Maria, tant'è vero che è un nome molto diffuso in lingua araba, il nome di Maria. Marisa, lei ci sta raccontando come e perché a Savona si riesce anche attorno al presepe a fare integrazione, a coinvolgere anche le altre esponenti anche di altre religioni. Grazie Marisa, si candida per il nostro concorso di oggi, il nostro gioco. Vediamo più avanti quali altri racconti sulle tradizioni anche alternative di Natale arriveranno all'800 24 00 24. Ci sentiamo dopo il GR. Ciao. Si può fare cronache da un paese migliore. Just keep on dancing, forever always ends, you know. Fall in love, you and I. Can't afford to waste our time. Sun is up in the sky. We don't even know the reason why. So high, so high. questa è The Reason Why di Lorenzo Fragola per il nostro Si Può Fare in Musica. Diciamo che lui ce l'ha fatta essendo il vincitore di X Factor. È la canzone scelta dalla nostra ascoltatrice Rosaria Lucci. Vi ricordiamo che potete postarci sui nostri social il vostro Si Può Fare in Musica, ovvero una vostra interpretazione di Si Può Fare, cioè di qualcosa che si può fare in musica, di modo che poi noi ci faremo il CD o comunque faremo sentire la vostra canzone durante la nostra diretta radiofonica. Vi ricordiamo che potete farlo sui nostri social, quindi su Facebook oppure su Twitter, sull'account di Si Può Fare, che è @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @carlogabardini e quello di Alessio è @AleMaurizzi. Eccoci qua. Allora, tu hai seguito X Factor, cari ascoltatori, chi di voi lo ha seguito, perché era su Sky, quindi non era visibile a tutti. Però io ho detto, ho pensato questo, no? Se avesse vinto Mario sarebbe stata l'Italia del lavoro, lui che è un disoccupato, sardo, una bella storia. Se avesse vinto Mad sarebbe stata l'Italia moderna, che guarda anche un po' alla musica internazionale, anche a stili moderni. Ha vinto Fragola. Che Italia è questa qua di Fragola? L'Italia agricola, direi, le fragole. Bravo, esatto, certo. Hai capito allora? Assolutamente. 800 24 00 24. Oscar da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo dire che quello che ha detto l'assessore di sì. Torino mi sembra quantomeno una stupidaggine, veramente. Perché? Un uomo onesto è sì. onesto per un mese e onesto per 50 anni. Visto che in Italia purtroppo non si dà l'idea, il concetto e il significato di Stato, sì. quello che è dello Stato non è di nessuno, e quindi ognuno si ritaglia il proprio spazio pro domo suo. Però, giusto, però il problema è l'uomo identificarli gli uomini onesti. No. Assolutamente, un uomo in gamba insegna agli altri, sì. quindi lui il dirigente va bene, fa Oscar. Il problema è non sapere qual è, nel senso che se loro pensano che siano tutti onesti, perché se pensassero che uno non fosse onesto lo dovrebbero mandare via, non è che lo dovrebbero spostare in un altro ufficio. Ma, giusto? Senta, dica. Tutti chi lavora sa come si lavora e come si deve lavorare. Quando problemi ce ne sono a non finire, quando si vede come si risolvono e come si portano avanti i problemi, si capisce chi ha voglia di lavorare e chi non ha voglia di lavorare. Ma come si capisce? Nel senso che abbiamo il problema delle si capiscono. Il problema è che queste persone qua arrivano in situazioni di gestire lo Stato che sono dei personaggi raccogliticci in non so quali altri postriboli. Ma ha ragionissimo. Non c'è più una scuola che insegni come si deve fare l'amministrazione. Ha ragionissimo in questo. Il problema è che con gli amministratori che ci ritroviamo, voglio dire, questa è una misura difensiva. Allora, qualcuno deve prendere il coraggio di azzerare tutto. Cioè di mandare via tutti? Azzeriamo, cerchiamo di fare delle regole più precise. Oscar, questa è una proposta, una soluzione, un'idea, magari una piccola idea. Io ho chiesto a voi ascoltatori di dire la vostra. Lei è scettico, non la vede come una soluzione possibile. Può darsi, che dire, non è che dobbiamo risolverla adesso, insomma. No, ma siccome sì. il punto di partenza è corretto, il problema è che noi siamo già in mezzo al problema. Sì. Facendo un passo indietro, uno dice tutti gli amministratori dovrebbero essere onesti. Verissimo, è vero. E poi può anche dire dobbiamo azzerare tutto, ma non è che si può in questo momento azzerare tutti gli amministratori di tutta Italia. Quindi con quelli che ci sono, uno dice, non essendo io sicurissimo sì. che siano tutti onesti, inizio a farli votare, di modo che se ci sono delle consuetudini corruttive, cerco di in qualche modo di interromperle. È anche forse una questione di punti di vista, perché Oscar concentrava la sua attenzione sulle persone oneste, che saranno oneste sempre e comunque, ma ci sono anche i disonesti. Allora il problema è mettere a freno quelli e tutto un tratto invece poi dopo lo trovi con una busta in mano. Andiamo con Marcus, che chiama dalla provincia di Pordenone. Buongiorno. Allora, io vorrei dire un paio di cose legate sì. a da dove nasce tutto questo problema. Il problema nasce ancora dalle vecchie tangentopoli degli anni 90, quando è stato deciso di separare il ruolo amministrativo da quello politico, e da lì si è creato un grande luogo di potere che sono appunto i funzionari che durano nel tempo, mentre gli amministratori vengono turnati con le elezioni. Chiaramente questo non accade per i funzionari, e da questo adesso si vuole cercare di risolvere il problema frazionando nel tempo anche la durata dei funzionari. Sì. Ad tutto questo, io sono amministratore di un piccolo comune, aggiungo che tutte queste normative che si stanno introducendo stanno uccidendo i piccoli comuni che non hanno le dimensioni per le quali vengono pensate le leggi che devono poi essere applicate. E quindi noi ci troviamo nella condizione legge, di non fare a quale più legge, niente. A quale legge si riferisce? Ad esempio riferisce? all'anticorruzione che è stata, cioè, detto, è stata citata. Ecco, questa legge anticorruzione in che senso mette in difficoltà un piccolo comune come il vostro? Ma perché il comune di Torino si è adeguato alla legge e quindi sì, ha previsto la turnazione, ma io che ho 3 capi ufficio per tutti i vari, certo, servizi. Certo, è più difficile fare. Come faccio? Ma anche lei sarebbe, ma lei scusi, lei cos'è, il sindaco di un piccolo paese? Io sono il sindaco di un paese di 2000 anime. E chiaramente da voi fare la rotazione, cioè come fare il gioco delle due carte, nemmeno delle tre carte. Vi guardate in fronte, ma è obbligatorio anche per voi fare questa rotazione o no? La legge prevede l'obbligatorietà anche per i piccoli comuni, poi è prevista qua anche l'istituzione delle centrali uniche di committenza. Forse qua, grazie intanto per averci chiamato, perché è chiaro, il problema ha ragione, no? Sì, è interessante in un piccolo comune come avviene questa cosa. Sì, anche se, non lo so, un'esenzione si potrebbe immaginare qualche cosa, non vedo casi di grande corruzione in comuni di 2000 abitanti, non si fanno appalti. È più facile il controllo, tu dici, certo. Per il controllo ci sono meno soldi, meno rischi, meno problemi. Se io pensavo che concentrerei l'attenzione sulle grandi città, grandi comuni. Pensavo che fosse anche più facile turnarli, in realtà, perché uno, diciamo, essendo solamente in tre, uno di solito magari sa che cosa fa il proprio collega nella scrivania di fianco e quindi può prendere il suo ruolo. Invece evidentemente non è così, come dice il sindaco. Vincenzo da Brescia, buongiorno. Intanto, cari ascoltatori, chiamateci anche per le vostre tradizioni di Natale. Come festeggiate il Natale? Ho capito che è caduto, mi stanno facendo segni sperticandosi. Sì, è caduto Vincenzo, speriamo si sia fatto male. Esatto. Ho anticipato, ho bruciato la battuta. 800 24 00 24, vi chiediamo anche questo: come gestite il vostro Natale? Come gestite la tradizione del presepe in presenza anche di altre religioni, di altre nazionalità, di altre culture? Se avete altre, delle tradizioni particolari anche della vostra famiglia, sì, giusto? O nella vostra città, nel vostro comune, come per esempio Santa Lucia. Stanotte è la Santa Lucia, esatto. Cioè, oggi è Santa Lucia, stanotte in alcune città, insomma, in alcune zone d'Italia si è un po' festeggiato. Stamattina alcuni bambini hanno già trovato i regali sotto, sarà l'albero. Sotto l'albero, sì. Non costruiranno una grande Santa Lucia, immagino. Non credo. Prima parlavamo di Salvini, sì. Mi ha fatto ridere che ho visto un'intervista di Salvini quando, esattamente per la cosa di cui parlavamo, cioè la protesta per il presepe, dove lui diceva: adesso mi crocifiggeranno perché sto facendo questa protesta, mi crocifiggeranno a proposito di Natale. Volevo ricordare a Salvini che comunque Gesù Cristo viene crocifisso a Pasqua, non è una questione di Natale, quindi il riferimento, diciamo, va bene difendere il presepe, però così almeno 4 riferimenti conviene averli. Va bene, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Sulla sponda argentina una folla cammina, far sorridere al mare un confuso vociare, il piroscafo è là, tornan via gli emigranti della patria sognanti, dopo il crudo lavoro con un gruzzolo d'or, con in cuor l'ansietà. La nave silente. Ti vedo perplesso, Gabardini, sulle note di questa canzoncina che ci porta ai tempi in cui si emigrava all'estero, tempi che sono tornati. In Germania, poi. In Germania. No, è una lacrimuccia quella che vedi, non è. avendo io fatto la scuola tedesca, diciamo. La buona notizia è che ci sono posti di lavoro in Germania per italiani. Adesso vi spiegheremo perché e per come. La cattiva notizia è che sono tornati i tempi in cui si deve emigrare per trovare lavoro. Cioè, questo è un tema ricorrente, insomma, la fuga di cervelli, bisogna andare all'estero. Io dico una cosa, in qualche caso farsi un periodo all'estero, andare a trovare lavoro all'estero, la Germania, insomma, non è... ricordiamoci che siamo in Australia, insomma. Ma poi è Europa Unita, in teoria. Europa Unita, si va, si lavora, non è neanche un estero, quasi volendo. Nel si guadagnano che... 5.000... cosa c'è in Germania? L'euro! Si guadagna di più comunque in Germania. Insomma, sono opportunità. Noi partiamo intanto di qua. Poi, chiaramente, gli ascoltatori commenteranno e diranno la loro. C'è un portale che è appena stato realizzato in lingua italiana, riconoscimento in Germania.it. Con i trattini fra riconoscimento in Germania. Che è rivolto proprio a italiani per opportunità di lavoro in Germania, in particolare in campo medico, medici e infermieri. Ne parliamo con Fausta Tagliarini, che è referente italiano proprio di questo sito, riconoscimento in Germania. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, credo che si tratti soprattutto di professionalità nel mondo della sanità, intanto è così? Sì, diciamo si tratta di tutti quei tipi di lavori che richiedono un titolo qualifica professionale, quindi in particolare le professioni mediche, infermieristiche, sì. E poi in realtà, essendo una legge che poi, oltre che quella sul riconoscimento, oltre che a livello nazionale, è stata poi sviluppata anche dai vari land, quindi insomma ci sono delle regioni in cui è necessario avere il riconoscimento professionale anche per altri ruoli. Mm-hmm. E in ogni caso comunque può essere un vantaggio anche laddove non sia obbligatorio, perché comunque si in qualche modo si ottiene l'equipollenza dei propri titoli e quindi anche delle proprie votazioni, banalmente, o insomma viene tutto riconosciuto il percorso che uno ha fatto in un altro paese. Ecco, ma c'è concorrenza nel campo dei medici e soprattutto degli infermieri? Perché noi in Italia ogni tanto sentiamo dire ci sono molti infermieri stranieri, non ce ne sono abbastanza in Italia, evidentemente è una professione che... Sono tutti in Germania, evidentemente. Sono tutti in Germania, voi in Germania, cioè dalla Germania chiedono infermieri italiani, come funziona questa situazione? Sì, sicuramente ci sono, insomma c'è molta richiesta non solo di infermieri ma anche appunto di lavoratori esperti in vari campi, tanto che addirittura nell'ultimo anno circa si calcola, secondo i dati del Ministero, che più di 205.000 italiani hanno trovato lavoro in Germania, quindi al di là del fatto... Nelle professioni più disparate però stiamo parlando. Nelle professioni più disparate, esatto, sì. Questo a livello generale. E quindi insomma, oltre ad esserci una grande voglia degli italiani di andare verso quel paese, che è comunque il secondo in Europa dopo il Regno Unito come destinazione per chi vuole emigrare, c'è comunque anche, ci sono grandi possibilità, questo è sicuro. Insomma. Che cosa si trova chi si imbatte nel sito riconoscimentoingermania.it? Quali opportunità, che tipo di percorso viene offerto? Allora, lì soprattutto sul sito, diciamo, ci sono tutta una serie di informazioni e di strumenti di supporto per chi vuole appunto attivare questa procedura, per cui c'è addirittura un motore di ricerca interno proprio che si chiama Trova l'ufficio di riconoscimento, che permette, inserendo il proprio campo professionale e il luogo dove si vuole andare a vivere o dove si vive già, a seconda insomma se uno è già in Germania, si è trasferito, permette di trovare appunto sia indicazioni sul fatto se sia obbligatorio o meno ottenere il riconoscimento, sia poi gli uffici di riferimento con tutti i contatti. Quindi anche chi non è ancora partito può comunque cominciare già a prendere informazioni avvalendosi di questo strumento. Poi ci sono tutta una serie di testimonianze di persone che si sono già trasferite, hanno ottenuto il riconoscimento e quindi insomma spiegano anche un po' la loro esperienza. Ci sono anche tutte le informazioni sui fondamenti giuridici del riconoscimento e poi c'è comunque la possibilità di avere tutti vari tipi di strumenti informativi, quindi anche materiali da scaricare. Potrei raccontare un piccolo aneddoto personale. Quando ho fatto un master per fare carriera internazionale, che poi non ho fatto, ci dicevano: guardate, se studiate il tedesco, andate in Germania, sicuramente troverete un posto, perché ci sono un sacco di posti vacanti, per esempio nella diplomazia italiana, che si pensava di poter fare quel concorso che ho anche fatto, ma non ho vinto. Quindi è come se ci fosse un po', diciamo, una resistenza degli italiani a voler andare a lavorare in Germania. C'è anche questo, le risulta che gli italiani siano un po' resti a andare, magari vanno più volentieri in Spagna o non so, in Francia, piuttosto che in Germania. Ma in realtà, insomma, i dati sono quelli che dicono che nell'ultimo anno c'è stato un aumento, cioè sta continuando ad aumentare la percentuale di italiani che si trasferiscono in Germania. Addirittura nel 2013 è aumentata dell'11,5%, quindi forse non sta cambiando questo. Ma sono italiani che sanno il tedesco o sono italiani che, diciamo, all'inizio se la cavano con l'inglese in Germania? Questo non ho dati al riguardo, ma credo che comunque sia anche possibile cavarsela almeno inizialmente con l'inglese. Sì, anche perché in Germania parlano quasi tutti inglese. Esatto, diciamo. Sì. Io lo vedo anche con i miei colleghi, insomma, con cui collaboro in Germania, varie società, moltissimi stanno imparando il tedesco, ma già lavorano magari da un paio d'anni in Germania, quindi comunque c'è la possibilità di lavorare. Ma questo è buono per chi ci ascolta, che sappia che, diciamo, non è obbligatorio leggere Goethe in tedesco la mattina presto, ma si può iniziare con l'inglese, anche perché, ripeto, in Germania l'inglese viene usato molto tranquillamente, insomma, lo sanno tutti. Fausta Tagliarini, il sito riconoscimento in Germania.it, si può dire qualcosa di più anche sui settori? Abbiamo detto medici, infermieri, altre professionalità, accennare magari a qualche campo specifico nel anche quale architetti, ingegneri, sì. Ci sono anche comunque operai specializzati scusi, anche insegnanti, c'è moltissima richiesta. E, tra l'altro, sono tutte professioni che comunque hanno delle condizioni diverse rispetto a quelle che abbiamo in Italia, cioè lo stipendio medio in Germania è decisamente più alto. Cioè, gli ultimi dati dicono che uno stipendio medio è di 4.000. No, non ce lo dica così, perché altrimenti no, di 4.000 euro al mese. 4.000 lo stipendio medio. Ma la media del pollo di Trilussa? Che media? Cioè, la media dello stipendio in Germania è 4.000 euro? Sì, diciamo, dati che sono stati diffusi parlano di questo. Chiaramente è magari uno stipendio medio. Cioè tra infermieri, medici, architetti, no, cose no, del no, genere? No, siamo a livello proprio generale. Generale. Mi sembra altissimo come stipendio medio. Fausta, lei di un paese. Vive in Germania? Lei vive in Germania? No, vivo in Italia. Ah, purtroppo. Quindi purtroppo. Non ci può dare la testimonianza diretta di questi 4.000 euro. Volevi farti offrire una cena? Gabardini, tu hai studiato alla scuola tedesca, sei in prima, come dire, in prima fila. Sì, dipende per il lavoro, insomma, facendo l'attore e lo scrittore, diciamo, il tedesco lo so, ma però non mi azzarderei mai a scrivere direttamente. Un bel ingaggio per la TV tedesca. No, perché mi interessa soprattutto la questione del riconoscimento, perché io mi ricordo che ai miei tempi, comunque, io ho la maturità tedesca, ma ho fatto anche un esame per avere la parifica italiana, mentre credo che oggi come oggi non avrei nemmeno bisogno di fare un esame in più, nel senso che io ho entrambe le maturità, però credo che oggi con l'Europa Unita, nel momento che uno ha una maturità anche semplicemente italiana, può andare in Germania e farsi riconoscere il documento, giusto? Esatto, diciamo, proprio farsi riconoscere sia il percorso fatto, quindi ad esempio a livello universitario il tipo di esami che si sono sostenuti e le votazioni ottenute, quindi comunque avere un riconoscimento che, appunto, senza poi sostenere esami particolari, però sia molto dettagliato. E quindi chi lo dice adesso a mia mamma che non è servito a niente farmi studiare alla scuola tedesca perché potevo fare una bella maturità italiana e poi farmela riconoscere col vostro sito? E sul caso Gabardini, vuoi, ecco, bravo, ci fermiamo qua. Grazie Fausta Tagliarini, referente del sito riconoscimento in Germania.it, una iniziativa del governo tedesco. I titoli dei giornali erano questi: il governo tedesco a caccia di medici e ingegneri italiani. 800 24 00 24, una opportunità, cari ascoltatori, ma anche, non lo so, un problema forse. Ma no, perché il fatto di dover emigrare per trovare un lavoro. Certo. Sì, sì, vabbè, però all'estero c'è lavoro, in Italia no. Come abbiamo detto prima, la Germania, insomma, non è poi così lontana, ecco. Chiudiamo con Frohe Weihnachten, che è Buon Natale in tedesco. Ah, perfetto, noi ci ricolleghiamo alle tradizioni di Natale. Vincenzo da Brescia, forse l'abbiamo recuperato, l'ascoltatore di prima che l'avevamo annunciato. È lei? Eccomi. Buongiorno, ci siamo preoccupati molto, è praticamente 50 minuti che parliamo di te. No, tutto a posto, nessun problema. Bene. io chiamo da Brescia e qui a Brescia appunto si prepara la letterina. Ovviamente è una tradizione dell'infanzia, io adesso ne ho un ricordo, diciamo, mediato dai cuginetti piccoli. Un ricordo sfocato. Esatto. Beh, ma la letterina però direi che è mondiale, no? Ma la letterina, certo, perché Santa Lucia deve sapere quali sono i doni sperati. Però ovviamente... lui sta parlando della letterina a Santa Lucia, noi scriviamo la letterina a Babbo Santa Natale. Lucia, certo, no, io scrivo direttamente al titolare di solito, sì, è vero. Sì, infatti. Noi appunto scriviamo la letterina a Santa Lucia e la sera prima, quindi ieri sera, ci sono tutti i preparativi. A casa nostra si preparava la farina per l'asinello, perché appunto non ci sono le renne, ma Santa Lucia viene con l'asinello. Vedi. E per Santa Lucia la tazzina di caffè, perché appunto la tradizione napoletana... Lei beve il caffè, Santa Lucia vuole il caffè. Per affrontare anche la lunga nottata, diciamo, per portare i doni un po' dappertutto. Ma quindi stamattina i ragazzi, i bambini hanno trovato i regali? Esatto, sì. E a Natale poi che succede? Nulla? Adesso secondo o c'è me una seconda arriva mandata. Natale, arriva Babbo Natale, arriva la Befana, arriva, diciamo, c'è un po' un intasamento, diciamo, di doni. Però ai miei tempi, parlo degli anni 90 ovviamente, c'era soltanto Santa Lucia, cioè nel senso Babbo Natale era una cosa da film, diciamo. Certo, il buono è che si scrive la lettera molto prima, quindi diciamo se ci sono problemi di poste in questo paese, esatto, è giusto, nel senso che uno la manda a Santa Lucia, nel caso c'è sempre ancora quella quindicina di giorni perché arrivi a Babbo Natale per il 25 dicembre. Grazie. Ma poi adesso c'è la mail, quindi non c'è nessun problema. Perfetto, mail a Santa Lucia. La mail a Santa Lucia è fantastica, grazie Vincenzo da Brescia. Buona giornata. Io lo sapevo che chiama, perché poi Santa Lucia si festeggia sicuramente a Brescia. E nei dintorni, no, e anche in altre città italiane. Verona, se non sbaglio. Nel nord Italia. Adesso sbaglieremo sicuramente città e ci chiameranno per redarguirci e noi ne siamo contenti. Regia, Carmelo, posso fare anche Antonio da Reggio Calabria? Ma sì, dai, buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Prego. Allora, grazie di avermi chiamato. Io rapidamente volevo soltanto farvi i complimenti per la trasmissione, anche perché vi seguo molto e fate un servizio eccellente sull'informazione. Grazie, non facci troppi complimenti perché già hai detto grazie davvero, ci hai chiamato perché sembra che abbiamo chiamato noi aprendo l'elenco. Invece in realtà diciamo hai chiamato tu. Esatto. Giusto così. Allora, rapidamente soltanto questo, volevo intervenire su un concetto che secondo me io tengo molto a cuore, anche perché lavoro in un settore prima di tutto a Reggio Calabria, quindi al sud, certo, dove lavoro in tutta la regione per come consulente in ambiente qualità e 231. È un argomento che è molto difficile, dove parlare di etica proprio in questo periodo dove tanti si mettono in discussione la serietà e l'onestà delle persone. Quello che volevo dire, il pensiero è questo: io sono anche un ex ufficiale dell'esercito e 30 anni fa quando ho fatto la domanda per partecipare, essendo un anonimo, quindi non avevo nessuno in paradiso, tanto per dirla tra virgolette, e c'è stata sempre una indagine che i carabinieri hanno fatto sulla mia famiglia, sui miei parenti e su tutti quelli che appartenevano nel raggio della mia cerchia. Allora, esistono le leggi, applicarle anche al mondo della politica non sarebbe, credo, molto difficile. Basterebbe fare semplicemente il punto della situazione e impedire a chiunque abbia avuto o comunque abbia avuto qualche problema in famiglia o anche lui direttamente, impedirgli di candidarsi. Semplicemente questo, già questo potrebbe essere un filtro, a mio avviso, che potrebbe permettere di fare una scrematura all'inizio. E è chiaro che poi tutto è sempre discutibile, però cioè, secondo me sta dicendo che già, sì, basterebbe applicare delle cose che già esistono, le norme, cioè, le sono, norme degli ufficiali, sì, di applicarle anche ai nostri politici per entrare nell'esercito. È molto semplice, in tutti i settori, a tutti i livelli, specialmente chi deve gestire la cosa pubblica e deve avere la compiacenza di mettersi a disposizione, così come ho fatto io 20 anni fa, a mettere a disposizione la mia famiglia, sì, ho avvisato tutti i parenti, ho detto guardate che avrete una verifica perché io mi sto candidando a fare l'ufficiale e quindi sappiate che qualcuno verrà a chiedervi che cosa fate e che cosa non fate. Cioè, Antonio, mandi una mail al governo, perché sulla riforma della pubblica amministrazione credo siano ancora aperte le possibilità di mandare le proposte, perché insomma sembra una buona proposta, ha un po' di esperienza, ha delle idee, ma quanti anni ha? Io ho 55 anni. Ah, perché dalla voce sembrava che ne avesse 20, poi iniziava a dire 20 anni fa, sono un ufficiale, sono, mi stavo allora, stupendo. Guardi, io ho uno spirito, ho sempre voluto insistere a rimanere in Calabria, non andare via perché ci credo tantissimo. Ottimo, cioè si sente più giovane per il fatto di essere stato in Calabria? Cioè questo l'ha ringiovanita? Come? Il fatto di essere rimasto in Calabria? Mi ha dato sempre la grinta di voler andare avanti e raggiungere degli obiettivi. Bravo. E grazie a questo impegno forse ho dato spazio a qualche altro ragazzo che gli ho impedito di emigrare e di trovare, di credere nella Calabria e di credere a lavorare qui. Bravo, Antonio. È veramente un impegno notevole. Io sono cresciuto nel rispetto dei valori e nell'etica. L'insegnamento che ho avuto dai miei genitori è stato questo, ho cercato di trasmetterlo ai miei figli e ovviamente cerco di trasmetterlo a tutti quelli con cui ho un contatto. Grazie Antonio. Grazie mille Antonio, buon sabato. Allora, voglio leggere un paio di tweet, per esempio sulla questione della corruzione. Tonio Monda ci scrive: in Svizzera le più alte cariche dello Stato, capi delle Camere e del Governo, sono a rotazione. E quindi ci conferma che questa cosa succede anche in Svizzera. Sempre Tonio Monda, che ci chiama in causa su Twitter: per me a Natale è da tradizione fare con la banda musicale le pive natalizie per i mercatini. Oggi non abbiamo scelto un hashtag per coinvolgere gli ascoltatori su Twitter. Poteva essere... Si può pive? Si può pivare? Si può natalare? Ti leggo anche un sms invece. Buongiorno, sono nata a Palermo, adesso vivo a Modena, ma oggi mi fa piacere mantenere la tradizione paterna. Oggi niente pasta e pane. Mangio grano lessato condito con olio e poi riso con cavolfiore. Sì, ma questo è sbagliato, lo va a chiamare Paolini, il gastronauta. No, però è interessante, io non conosco questa tradizione palermitana, quindi chiediamo a Giuseppina, che ha mandato questo sms, di telefonarci per raccontarcelo o chi altro. A tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Meraviglia. Quando sento questa musichetta e penso a Temporelli, a pensi a voi, penso a te. Temporelli. Massimo, ci sei? Ciao. Ciao, buongiorno. Grazie per il pensiero associato a questa bellissima musica. Certo, devo dire che Andrea Piana, il nostro autore, è davvero bravo, perché ha pensato questa musichetta così, en passant, però musichetta, questa celebrissima e bellissima canzone. Che è bellissima, secondo me, attaccata a Massimo Temporelli, perché è una canzone che ci riporta a un passato, parla però del futuro, e noi proprio di futuro parliamo con Massimo. I lavori del futuro oggi, cosa hai in mente per noi? Ma ho in mente un tema molto generale che nel futuro sicuramente ritornerà, è già nel presente un tema molto importante, è quello dell'energia. Quindi oggi parliamo un po' di green, anche se è una parola molto inflazionata, però diciamo che l'energia anche nel futuro, forse più di oggi, avrà un ruolo fondamentale, e naturalmente anche il risparmio dell'energia. Allora, c'è una figura che già esiste che si chiama Energy Manager, che forse conoscete, ne avrete già parlato, che però opera per una legge del 91, che però opera all'interno delle grandi aziende. Allora, io ho guardato un attimo per curiosità di cosa si tratta, cioè quando parlano di grandi aziende cosa intendono. Allora, per avere un energy manager all'interno di un'azienda, tu devi consumare 4,5 milioni di kilowatt all'anno, da kilowattora all'anno. È una 4, cosa, è una roba enorme. Allora ho detto, ma quant'è? Perché insomma, non è che ci giochi tutti i giorni con i kilowatt, con milioni di kilowatt. Io l'unica cosa che faccio è che apro delle bollette ogni tanto, quindi direi che è una cifra che mi spaventa. Ecco, una famiglia composta da 4 persone consuma circa 25.000 kilowatt, quindi migliaia di volte meno. Va bene. Allora, già prendere queste famiglie e portare un energy manager all'interno delle loro abitazioni e dire: ma vogliamo fare un'analisi dove consumi e perché consumi? Ripeto, questa cosa qua la fanno quando si costruisce una casa, si può fare il tetto che coibenta meglio, si usano i termosifoni, però quelli sono piccoli o anche grandi investimenti per una famiglia. Immaginatevelo nelle piccole e medie aziende, questo, che non sono obbligati a usare fare un energy manager, ma che con un quello che ho chiamato, immaginato chiamare energy saver, cioè che salva l'energia, non la gestisce, sì, tanto, ma proprio con piccole azioni. Però Massimo, è curioso una cosa, che tu giustamente ti rifai a questa legge del 91 che prevede, sì, un obbligo solo per le aziende così grandi, e tu dici giustamente sarebbe il caso che questa cosa riguardasse anche le aziende piccole, se no addirittura le famiglie. Ma non dovrebbe essere anche una cosa, diciamo, volontaria? Un'azienda dovrebbe avere interesse a farlo, perché poi questa cosa non scatta, non funziona, cioè non c'è cultura del risparmio energetico o cosa, secondo te? Allora, io ho provato anche a proporre ad alcune aziende una figura, non io perché non sarei in grado di farlo, ma amici che si occupano di energetica, ma proprio in questo modo, cioè tu non mi paghi nemmeno, ti porto dentro la persona, ti fa un'analisi, quello che risparmi sull'anno, lo faceva anche una vecchia, sì, azienda, una storica azienda, lo giri a me, lo dividiamo. Non passa, forse perché ancora non abbiamo toccato il fondo della crisi. Quando veramente navigheremo nella palude più oscura, allora ci verrà in mente che prima di spendere così tanti soldi possiamo... Forse perché non è uno di quegli interventi immediati, no? Che uno deve vedere alla fine dell'anno. Eppure proprio con questa crisi, insomma, di questi anni, tante aziende credo che dovrebbero avere, hanno l'interesse a limare tutte le percentuali del bilancio. Insomma, il concetto è questo: io sono un'azienda, chiamo un consulente e non lo pago, però lo trovo sul mercato uno che, se mi fa risparmiare, a quel punto, diciamo, il guadagno lo dividiamo in due, e quindi no, in realtà non mi costa nulla. Ma c'è chi lavora in questo modo, cioè proponendo non un cachet per sé, ma semplicemente una percentuale del risparmio effettuato? In rete ne ho trovati pochissimi, quasi zero, ma io quello che, appunto, proprio perché stiamo parlando di lavoro del futuro, e secondo me il lavoro del futuro va inventato, io inviterei i giovani fisici, ambientalisti, ad andare nelle aziende a proporre questa cosa, perché appunto è bellissima come idea, ma anche nelle famiglie, perché prima tu facevi l'esempio delle famiglie, che sembra magari condomini molto più piccolo, però se uno lo fa per tante famiglie, risparmi 1000 euro all'anno, infatti fai un gas, un gruppo di acquisto solidale, esatto, anche solo delle conferenze e degli incontri dove puoi spiegare i materiali da utilizzare dietro i termosifoni, quelli più efficienti. Mi stai facendo venire un sacco di voglia, che purtroppo io non so niente di fisica, adesso vado a studiare e non so niente neanche di energia. Massimo, adesso una domanda che non c'entra, tu come passi il Natale? Hai sentito che abbiamo lanciato questa cosa stamattina con gli ascoltatori, raccontare, sì, ognuno tradizioni particolari, voi avete in famiglia, o tu di dove sei? Io sono piemontese, di una bellissima cittadina piccolissima, si chiama, sì, Gemme, dove fanno un buonissimo vino, certo, e lo passerò a pranzo lì, a cena invece dall'altra parte della mia famiglia, insomma. Ok, ma non avete tradizioni particolari diverse dal resto degli italiani? Ci hanno chiamato per esempio ascoltatori di Brescia, perché lì stanotte i bambini hanno ricevuto i regali perché si festeggia, sì, Santa, sì, Lucia. In Piemonte tutto secondo... No, c'è la solita messa di mezzanotte con il vin brûlé, quando ero più giovane ne abusavo. Il vin brûlé però è una cosa un po' piemontese, secondo me, perché proprio in Toscana il vin brûlé non, alla messa di mezzanotte non ce l'avevamo. Sì. No, beh, è una questione di clima, è una questione di clima, secondo me sì, e di vini, che in Piemonte ci sono. Beh, anche in Toscana, diciamo, di vini. Però cedo volentieri il passo al Piemonte sui vini. Massimo Temporelli, ci sentiamo sabato, grazie, prossimo. Grazie a te. Poi grazie, ci salutiamo per Natale, ci facciamo gli auguri. Sì. Va bene, grazie. Grazie mille, ciao. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre telefonate anche su questo, perché stamattina siamo partiti dalla questione del presepe, mancato presepe nelle scuole. A me, per esempio, che posso, io sono, non sono particolarmente credente, forse addirittura sono miscrede, no, bella, paroloni, no, sono ateo, però il presepe mi piace perché è una bella storia veramente, è una tradizione bella, e anche secondo me è giusto farlo nelle scuole, per confrontarsi però anche con i bambini che vengono dalle altre religioni. Allora sarebbe giusto che hanno altre religioni, vengono da altri paesi, sarebbe giusto aggiungere simboli. Ma infatti, secondo me, è la stessa cosa che ha detto poi il preside di quella scuola, nel senso che, sì, secondo me ci può stare che una scuola decida, magari perché ha molti studenti di altre religioni, dice la scuola in quanto scuola non propone il presepe, perché sennò è l'istituzione che propone il proprio punto di vista, sì, ma ovviamente il presepe Giuseppe non è mai vietato, questo che è la cosa fondamentale, e lo stesso preside l'ha detto molto chiaramente, cioè nel senso che nel momento che gli studenti decidono di fare un presepe, che lo facciano, va benissimo, è l'istituzione che non decide, questa è la religione che noi abbiamo scelto. E insomma, noi stamattina vi abbiamo chiesto di chiamarci per raccontarci come nelle vostre scuole, nelle vostre case, nelle vostre città si gestisce questa questione del Natale rispetto alle altre tradizioni religiose, ma anche rispetto alle altre tradizioni locali cittadine. 800 24 0024, tra poco torniamo dopo il traffico. Scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, andiamo con Mohamed che ci chiama da Aosta. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Bene. Sì, benissimo. Perfetto, sono dentro il mio negozio e quindi avevo paura che non mi sentivate. In che negozio? Niente. A fare regali, ovviamente. Sì, io vendo abbigliamento sportivo e quindi non dico né nome né cognome, che non se no sembra che voglio farmi la... Ma è suo il negozio, Mohamed? Lei è... Sì, ah, sì, beh, no, allora sì. Va bene. Puoi dire delle frasi che sibilline che qualcuno intuisce che negozio sia. Comunque Mohamed ad Aosta, già abbiamo dei dati. Sì. No, sto scherzando, scusami. Prego, dici tutto. Su cosa volevi intervenire? Ma niente, seguivo un po' la questione dell'istituto dove il preside ha, non so se ha vietato, ha consigliato di non mettere il presepe. Sì. No, ha deciso di non metterlo lui in quanto scuola. Perfetto. Non l'ha vietato. Perfetto. Io sinceramente, proprio per lasciare un po' tutti contenti, visto che c'è questa presenza di altre religioni in Italia eccetera, avrei fatto il contrario, avrei permesso che ci sia il presepe, però avrei allargato le festività anche alle altre religioni, nel senso, quando c'è Ramadan non trovo nulla di strano di farlo sapere a scuola, come sì, altre religioni, per quello che può essere il Kippur per gli ebrei eccetera eccetera. Certo, sì. Vogliamo un'integrazione al 100%. Guardi Mohamed, è proprio l'idea che abbiamo avuto anche noi, la io la penso ecumenica come lei, sì, e quindi infatti il gioco era proprio questo, cioè aggiungere, raccontare tradizioni. Lei è cristiano? No, io sono musulmano. Dal nome si poteva intuire. Come in molti paesi musulmani, tra l'altro, il Natale viene comunque festeggiato come festa più commerciale, però non c'è di mezzo naturalmente la religione, credo, e la figura di Gesù bambino. Come vivete il Natale nei paesi musulmani, per esempio? Io sinceramente 35 anni che vivo qui in Italia, quindi sono partito via che avevo 12 anni. Manco se lo ricorda più. Però ci piace il suo approccio ecumenico. Sì. Ancora giù, sì. Ma suppongo che i cristiani, che adesso io parlo del Marocco perché arrivo da Casablanca, lo vivono come lo vivono qui, nel senso che abbiamo una delle più belle chiese che possono essere nel Nord Africa, e lo vivranno in chiesa come lo vivono nell'ambito familiare. Però questo i cristiani, sì. Noi ci chiedevamo invece i musulmani. No, beh, per i musulmani il Natale non esiste, casomai festeggiano il Capodanno in quanto parte un nuovo anno, ma il Natale in se stesso non esiste, sia laggiù che qui per quanto riguarda i musulmani. E poi sappiamo tutti la storia di Gesù, che non è nato il 24. Senta Mohamed, ma sì, certo, ad Aosta che lei sappia c'è qualcuno che festeggia il Natale come invocava lei, cioè aggiungendo simboli a simboli, quindi viva il presepe, ma parliamo anche delle altre religioni. D'Aosta, sì, oddio, io adesso nella fattispecie sono anche il presidente della Lega Islamica in Valle d'Aosta e quindi sono anche abbastanza coinvolto. È coinvolto? Direttamente, sì. Noi nel nostro piccolo facciamo conoscere le religioni ai musulmani, ai bambini musulmani, perché i grandi ormai lo sanno, però giustamente festeggiamo le due feste musulmane. E quindi quella del fine Ramadan e quella del sacrificio Ma oltre a questo non andiamo in giro, visto che magari non ci è neanche permesso, per le scuole per far conoscere anche le festività musulmane, ecco. Va bene, Mohamed, grazie quello per essere stato con noi. Quello che è questo, per far arrivare l'idea, è quella invece di mettere al coperto le feste e le religioni in genere, casomai facciamoli conoscere, visto che purtroppo qua si stanno perdendo le religioni grazie a tutte le crisi e via dicendo che ci sono già. Grazie, buon sabato anche a Mohamed. Andiamo con velocissimamente, no, mi sa che altri ascoltatori non facciamo in tempo a farne. Adesso un appuntamento, una mostra, vai. Per fare l'eremita serviranno varie cose che trasformino la vita con azioni monodose. Lo so che stai pensando tu con quella faccia strana, che partire lasciar tutti un po' da figli di puttana. Il traffico, lavoro, problemi di denaro, si fa una gran fatica, la vita costa caro, con tutte quelle belle cose alla televisione, guardando casa tua, ti senti un po' coglione, così pensi di non aver ben capito dalla vita, quanto è lunga questa strada, quanto è dura la salita, lo diceva da piccino che non era tutto d'oro, ma ho bisogno di fermarmi, di pensare al mio futuro. Vi saluto e penso alla mia vita, per un po' di tempo vado a fare l'eremita. Parto, lascio tutto, vado a vivere da solo al Polo Nord. Così inizio a riflettere su cosa devo smettere di fare. Parto, lascio tutto, vado a vivere da solo per un po'. Non sono più capace di dire mi dispiace. Un appuntamento è questo al Parallelo Zero Caffè a Milano. La mostra e il libro di Carlo Bevilacqua. Buongiorno, è qua con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Un reportage a caccia di eremiti nel mondo, direi. Sì, in sette paesi. Più che un reportage lo definirei una galleria di ritratti, cioè sì. più diciamo un termine più corretto. Ma sì. va di moda adesso fare un po' l'eremita più di prima? Non lo so, però il fatto che stanno sicuramente aumentando, come si evince da alcuni libri sull'argomento che sono stati pubblicati negli ultimi anni da sociologi come Turina, piuttosto che più che altro su altri studi, è un fenomeno sicuramente in evoluzione, è tra l'altro vissuto anche con modalità differenti rispetto sì. allo stereotipo che noi conosciamo, quantomeno che c'è stato trasmesso dalla iconografia classica. Ce ne racconti qualcuno di questi, qualcuno che ti ha colpito particolarmente di questi eremiti che hai visto? Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è, si chiama Padre Cosmas, che è un eremita del Monte Athos, dove sono stato con lui per una settimana. In Grecia? In Grecia, sì. E lui mi ha colpito perché lui diceva spesso: io non sono un monaco, ho visto monaci. E lui diceva che non poteva essere un vero monaco perché era troppo mondano, ma la sua mondanità stava nel fatto che lui studiava molto i libri classici soprattutto, e dedicava poco tempo alla preghiera, diciamo, la preghiera, anche se comunque i monaci ortodossi praticano la cosiddetta preghiera del cuore, che è un continuo, una sorta di mantra interiore religioso, che è una sorta di Kyrie eleison. Quindi in questo caso eremita va di pari passo con studioso, insomma si ha più tempo sicuramente per leggere, per approfondire, per fare cultura. Tutte le altre esperienze di eremiti le trovate al Parallelo Zero Caffè, dove sono in mostra le foto di Carlo Bevilacqua, che ha anche scritto un libro. Grazie per essere stato noi, dobbiamo però chiudere, salutiamo tutti, ringraziamo grazie. Tutti e soprattutto Marisa di Savona, che vince oggi sulla sigla. Ciao, a domani. A domani.